c'è Madonna bionda dagli occhi azzurri che brillan languidi. Voglio vederti ancora da quelle velone per me sorridere. Gli occhi tuoi son le stelle del cielo buio di questo mio cuore. Canta la primavera la sua canzone di sogni e quanti glicini in fiore sul tuo verone che ti inghirlandano. Tu di Firenze sei il tuo, quella più bella d'un fio. Cantali tuo bacio amore, il suo stornello d'eterna passione. La scaletta di rose e pampini, sciogli le trecce alla sole, fai che il mio cuore s'avvinca rapido. Vieni, sorridi se ancora dura il tuo sogno d'amore. Voglio solo tuo bel seno, la stanca fronte così riposare. Guarda Firenze brilla nelle sole d'oro più dieta e rapida, tutta la vita nuova di primavera la fa sorridere. Vieni, sorridi anche tu, fiore di mia gioventù. Se tu mi guardi, amore, la primavera per me fiorirà.